A bordo campo di Dario Ricci. Ma io حسین موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی اقتصادی. Quella che sentite è la voce di Mir Hossein Mousavi, l'uomo che sta portando avanti la causa riformista in Iran dopo la contestatissima rielezione di Ahmadinejad come presidente della Repubblica Iraniana. Una situazione quanto mai difficile per l'Iran, che ha riflessi anche sul calcio e sullo sport iraniano. E oggi allora a bordo campo parliamo proprio di questo legame mai sopito, sempre evidente, sempre più evidente anzi, tra sport e politica, in particolare nella Repubblica Islamica dell'Iran. Nostra ospite è una donna. Fatima Dehestani da 7 anni vive a Siena, di origine iraniana e che è anche una procuratrice di calcio, un legame forte proprio tra il calcio iraniano e il calcio europeo. Buongiorno Fatima, benvenuta a bordo campo. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Fatima, partiamo proprio dalla tua storia. Insomma, non siamo certo abituati all'idea di un procuratore di calcio donna, e ancor più sorprendente è questo tuo ruolo di mediazione tra l'Iran e il calcio europeo. Come sei arrivata a questo incarico, a questo compito? Tutto successo tutto insieme. Io avevo questa passione avuta da infanzia, da bambina, per calcio. Sempre volevo inserirmi, ma era un mondo, anche come bambina non potevo giocare calcio con maschi perché non volevano una femmina. E stessa cosa anche da grande, era un po' difficile per me fare. Ma è successo così che ho conosciuto queste squadre iraniane in Iran, poi conoscendo qualche società in Italia, poi abbiamo parlato, erano persone importanti nel mondo del calcio, ho conosciuto loro, abbiamo parlato e poi tutto piano piano è andato, sono arrivata a questo punto, mi sono trovata in calciomercato, tutto così. Aiutaci a capire meglio, com'è organizzato il calcio iraniano, quali sono le squadre principali? Sono 16 squadre Serie A, che sono ultime due sono più importanti di tutti e due, uno Persepolis, uno Esteghlal. Che Persepolis è questo che lavoro io con loro, conosco molto bene, presidente, lavoro, vogliamo insieme, abbiamo tanti progetti, dopo con Esteghlal, che dobbiamo cominciare veramente da base, anche portare scuole di calcio per bambini, è tutto da base a base fino portare calciatori, tutto di più. Insomma, tanto lavoro da fare, ma sì. Qualche risultato il calcio iraniano l'ha già ottenuto. Ricorda, ad esempio, nel 1998 partecipazione ai mondiali di Francia e grande successo storico contro gli Stati Uniti, no? Con la doppietta di uno dei più grandi campioni del calcio iraniano. Esattamente. Poi anche il gol decisivo di Madavikia. Sì, Madavikia. Sì, in Iran ci sono grandi talenti, grandi calciatori, ma loro non sono conosciuti, non sono scoperti perché non c'è organizzazione, sempre queste squadre sono in mani di persone che sono super ricchi, ma non hanno, forse non conoscono questo calcio, non hanno questa passione, per quello non possono dare una bella organizzazione a queste squadre. Il problema è questo, non sono organizzati proprio per niente. Io ho visto, sono andata, vedo, ho parlato anche qua, tanti vogliono dare un mano, venire anche hanno accettato con questo caos politica che vengono in Iran e danno un mano grande. Tra l'altro quella vittoria a Francia 98 contro gli Stati Uniti, il grande rivale politico, fece scendere in piazza a Teheran milioni di persone, no? A Teheran e in tutto il paese, vero? Sì, mi ricordo, era un secondo rivoluzione in Iran, tutto anche, non so, bruciavano tutto, tutti erano per strada perché era anche questione di orgoglio, perché noi abbiamo sofferto tanto per questo politica di America, sempre pensavano tutti i problemi vengono per questo politico, tutte questa era una vittoria che tutti da bambini fino a anziani erano per strade. Io mi ricordo molto bene. Sì, era grande emozione. Adesso l'Iran torna in strada, torna in piazza, purtroppo però non per festeggiare una vittoria nel calcio, ma per di fatto quella che qui in Occidente vediamo come una sorta di guerra civile, no? Tra i riformisti, i riformatori e l'ala più conservatrice del potere. Come stai vivendo tu questa lotta? Che contatti sei con i giocatori a Teheran, con i tuoi amici a Teheran? Parliamo perché mi dispiace tanto, perché c'è tutta realtà nascosta, tutto, non so se conosci. Ci sono questo Basij è una sorta come Al-Qaeda, come Mujahideen, che loro sono un'organizzazione che vogliono solo creare questo caos, vogliono creare questa guerra civile, perché non deve essere proprio così. Questi sono che ammazzano, questi sono che non sono conosciuti, hanno faccia scoperto, vanno per strada, ammazzano, ammazzano gente. Questo è brutto, ma in realtà non è proprio questo. È questa gente che non sono aiuto, non è né parte Ahmadinejad né parte Mousavi, è un gruppo di gente per fare caos. Sono quasi gruppi incontrollati, no? Che in qualche modo operano, sì, contro i manifestanti. Sì, manifestanti, poi solo per creare questa povera ragazza Neda che era uccisa, era da parte questo Basij, che Basij, nessuno è responsabile di loro, non si sa da dove vengono, dove vanno, è terribile, perché anche a sera entrano nelle case, ammazzano gente senza, non sono conosciuti, chi sono veramente? Anche il calcio, dicevamo, non poteva rimanere estraneo a questa situazione. In particolare ha destato scalpore la scelta di alcuni giocatori della nazionale iraniana che nella sfida decisiva per le qualificazioni a Sudafrica 2010 contro la Corea del Sud a Seul, sfida che è finita 1-1 e che ha sancito l'eliminazione dell'Iran, hanno indossato un braccialetto verde, no? A simboleggiare un sostegno, un appoggio ideale alla causa di Mousavi, che proprio del verde ha fatto il suo colore nel corso della campagna elettorale. Ecco, hai notizie di questi calciatori? In questi ultimi giorni si è diffusa la notizia che sono stati in qualche modo puniti per questo gesto di ribellione. Sì, io non sono sicura al 100%, ma ho sentito che il governo probabilmente ha chiesto alla federazione iraniana di non convocarli per le prossime partite. Non so se sarà così o no. È sempre difficile mischiare sport e politica, ma poi sappiamo che come governo iraniano è molto severo, ma anche spesso questo sport può essere molto utile per comunicazione, per dare messaggi. Loro erano molto, perché secondo me sapevano che succederà. Se tutte squadre non fanno la stessa cosa, sapevano, non è una cosa, sapevano che succederà a loro. Erano consapevoli del rischio che stavano correndo. Tra l'altro ci sono anche giocatori proprio del Persepolis, no? Come Ali Karimi, che è considerato il Maradona d'Asia. Sì, Ali Karimi, questi Mehdi Matavichia, Vahid Hashempour, Ali Karimi, tutti loro sono miti per iraniani. Io sinceramente non ho visto quali erano esattamente che hanno messo questa fascia verde. Ti chiedo ancora, pensi che dallo sport possa arrivare un segnale di riconciliazione in questo momento così difficile per l'Iran? Sì, secondo me sì, perché questo sport, lo sport, ma specialmente calcio, essere seguito a tutti i livelli in Iran è una cosa incredibile. Da bambini da 5 anni fino a 99 anni. E poi loro sono miti per tutti questi giovani, tutti anziani, per quello secondo me sì, tanto. Era importante, hanno rischiato, ma erano veramente grandi fare un gesto così, sì. Chiaramente il tuo lavoro anche in queste difficili condizioni non si interrompe, e allora proviamo anche a guardare l'aspetto più calcistico di questa vicenda, sperando che poi tutto si risolva nel migliore dei modi. Quali sono i giocatori che secondo te potrebbero essere già pronti per il grande calcio europeo, magari anche in Italia? Ma io, loro sono già, giocano in questi bravi, già sono in Germania, sono tutto il mondo, giocano. Ma io veramente per ora volevo portare dall'Italia in Iran, e questi altri devono ancora essere preparati per uscire dall'Iran. No, ora non ce l'ho niente nomi per dare, non voglio fare nomi perché non sono sicura, non so, sono ancora non sono pronti. Più devono andare dall'Italia ora con questa situazione, non so che come sarà, spero che tutto ritorna come prima. L'augurio a questo punto, Fatima, è che la situazione al più presto si risolva e che poi tu abbia la possibilità di portare, chissà, magari il primo campione italiano nel campionato iraniano. Sì, sì, veramente. A bordo campo. A bordo campo parliamo di calcio oggi, però calcio del tutto particolare. Guardiamo la Champions League del prossimo anno, che potrebbe avere di fatto un grande protagonista, un esordiente, ma insomma calciatore già apprezzato sui campi del calcio italiano. Gene Gnocchi, ben trovato a bordo campo. Salve a tutti, ciao. Gene, spiegaci un po' di cosa stiamo parlando. Insomma, Gene Gnocchi... Allora, la cosa è molto semplice. Io un paio di settimane fa sono stato contattato dai dirigenti del Tre Fiori, che è la squadra che ha vinto il campionato sammarinese, che mi hanno chiesto se ero disponibile a giocare, perché loro sapevano comunque che io avevo lanciato questa campagna per giocare a 5 minuti in Serie A, comunque... c'ero disponibile a giocare i preliminari di Champions, perché loro avevano diritto a fare i preliminari di Champions. Ma no, io gli ho detto chiaramente sì, che era una roba che mi sembrava simpatica. Poi mi hanno dato tutto il parametro UEFA per le visite mediche, ho cominciato a fare le visite mediche e poi dopo ho saputo, cioè in realtà me l'hanno detto i miei amici, che erano usciti un po' di pezzi sulla Nazione, piuttosto che sul resto del Carlino, così, dove si diceva che il presidente della Federazione Sammarinese non tollerava questa cosa, perché è un comico, insomma, sia mai che giochi, insomma, era, e allora ho preferito ritirarmi, perché pensavo che, insomma, che fosse una cosa condivisa in allegria. Invece, se avessi saputo che c'erano questi attriti, queste cose, sicuramente avrei detto di no subito, ecco. Invece perlomeno ho fatto le visite mediche, quindi sono contento. Cioè, tutto a posto, diciamo così, insomma, le visite mediche. Sì, devo dire che per la mia età, insomma, sono in condizioni abbastanza buone. Senti, ma te le aspettavi queste polemiche sotto il Titano dopo questa offerta? Veramente no, perché pensavo che fosse una cosa, cioè mi hanno detto che il presidente della Federazione Sammarinese ha detto ma cosa pensano di vincere con Gene Gnocchi? Io non credo che passeranno il turno neanche senza di me. Pensavo che fosse una cosa, diciamo, che potesse restituire il calcio a una dimensione un po' più meno commerciale, un po' meno, insomma, stereotipata. Era una cosa curiosa, chiaramente, però una volta che ho provato che lo spirito non era proprio quello, insomma, ho preferito, ma anche per la squadra, loro sono stati gentilissimi e carinissimi, i Tre Fiori, anche per evitare delle ripercussioni nei loro confronti, di farmi da parte. Ecco. Comunque, ecco, non pensavi di poter essere ancora decisivo in Champions? No, non pensavo di essere causa di una lite per il calcio, che veramente no, è uno sport che ho amato tantissimo, nel senso che io gioco ancora, nel senso che sono ancora tesserato per una squadra di amatori, così. Però non avrei mai pensato a 54 anni che una squadra di Champions mi chiedesse di giocare. Ecco. Roba da fare invidia a Cristiano Ronaldo. Ah, cacà, certo. Senti, ma è il calcio che si prende troppo sul serio, o stavolta è Gene Gnocchi che l'ha fatta ancora più grossa del solito? No, no, no, in realtà io veramente non ho alzato un dito per poter, sono stati loro, dal punto di vista tecnico, a me poteva, cioè, visto che loro mi hanno detto che sono una squadra, diciamo, che come categoria sta tra la prima categoria e la promozione, quindi io credo che dal punto di vista tecnico, una volta accertate diciamo delle condizioni fisiche decenti, avrei potuto anche starci, chiaramente non tutta la partita, ma magari l'idea di fare 20 minuti, un quarto d'ora, così, e sicuramente appunto di, però insomma se era una cosa chiaramente fatta con questo spirito, ecco. Ma non è che hai cercato di mettere dentro nell'affare anche Bombogno, no? Il centravanti brasiliano che hai lanciato con gli occhi. In effetti il nodo adesso che è stato proprio quello, io volevo, il pacchetto era prendi due, paghi uno, e c'è anche Bombogno che però insomma è ancora un po' sopraffeso. Infatti non credo che avrebbe passato le visite mediche. No, lui no. A questo punto era andata meglio a Parma qualche anno fa, no? Perché comunque là eri stato tesserato e la possibilità dell'esordio tutto sommato c'era. Eh sì, perché lì ho tesserato, poi con Ghirardi c'era proprio questo patto. Addirittura quando c'era Rainieri ero lì per salvare, purtroppo per fortuna si salvarono l'ultima giornata e l'esordio fu rimandato, però lì ci andavamo vicini, insomma. Fino adesso, stagione che si è chiusa, qual è la cosa che ti ha fatto più ridere? Perché immagino che per un comico come te il calcio è una miniera di spunti, cosa ti ha fatto più ridere di questa stagione? Di tutta la stagione? Sì, sì. Ma di tutta la stagione, allora, dovrei fare mente locale un attimo, però ma sicuramente Mourinho è stato di un impatto, cioè è stato un impatto forte, perché è uno che insomma ha imparato l'italiano benissimo, ha imparato come si sta in Italia ed è stato molto bravo. Però forse la cosa che mi ha sorpreso di più è che nella classifica degli uomini più ricchi del mondo il barista di Adriano viene prima di Adriano. Guarda, era la prossima domanda che volevo farti: a chi mancherà di più Adriano, insomma, a te o ai baristi di Milano? Ah beh, sicuramente ai baristi di Milano, ma anche a me, perché già leggo che fa gli stessi casini in Brasile, quindi il problema è di trovare per lui una squadra che abbia uno sponsor, il cui sponsor sia una ditta che fa caipirinhe o cose di questo genere, e che il presidente appunto unisca queste due cose, che nel senso che lui si tenga in forma bevendo e nello stesso tempo alimenti questa sponsorizzazione. È l'unico modo che vedo per far giocare Adriano. Senti, Ibrahimovic ha il mal di pancia e vuole andare via dall'Inter. I giocatori che compra il Milan di recente hanno il mal di denti. Vedi questo Cissoko, si è messi male qua. Beh, lì lo capisco, perché la visita medica dei denti l'ho fatta anch'io, e il risultato che non ho proprio la dentiera, e quindi San Marino mi ha chiesto appunto di mettermi la dentiera per giocare, ed è la prossima polemica che verrà fuori, cioè può giocare uno con la dentiera? Io effettivamente devo giocare con la dentiera, però siccome San Marino mi ha detto che mi passava l'Orasiv, diciamo che l'impegno era quello, io tenevo la dentiera però con l'Orasiv. Una cosa che davvero non ha fatto ridere nessuno sono stati i cori razzisti contro Mario Balotelli. Pensi che invece possa aiutarci l'ironia anche per sbattere questi imbecilli fuori dagli nostri stadi? Ma l'ironia più bella è stata in questa Confederation Cup, perché ci sono talmente pochi spettatori in questa Confederation Cup che i giocatori di colore si fanno i bu da soli, e quindi questo la dice lunga sulla qualità dei giocatori, cioè che il calciatore è probabilmente la parte più sana e la parte più intelligente del mondo del calcio. Senti, di queste trombette sudafricane che ci martellano orecchie e cervello, che ne pensi? Sono importabili da noi? Penso che sarebbe bene usarle contro natura, ecco. Un'ultima battuta, Gene, ringraziandoti per la tua simpatia, uno sguardo alla prossima stagione, cosa ti aspetti dai nostri campi di calcio? Ma aspetto spero del buon calcio, però vedo che ormai buon calcio viene dalle società meno, cioè meno titolate, quindi credo che le sorprese saranno le squadre appunto tipo Cagliari, Atalanta, queste squadre che hanno comunque un progetto di gioco che vedo che le grandi società hanno sempre meno, cioè acquistano dei grossi nomi, ma poi assemblarli vedo che insomma risulta sempre più difficile. Progetto ringiovanimento del Milan, direi che però col caso Noemi si è andato un po' troppo oltre in questo senso. Beh, adesso aspettiamo di vedere i risvolti della vicenda Barese, perché insomma lì fortunatamente l'età si è alzata di un paio d'anni, quindi questo rimetterebbe tutto nella logica delle cose. Troveremo nel 2010 un alter ego a Mourinho? Qualcuno può almeno avvicinarsi alla grandezza mediatica dello Special One? La vedo molto difficile, perché credo che, cioè, da quello che vedo in giro, adesso sto guardando anche la Confederation Cup per vedere che tipi di allenatori ci sono, ma uno come Mourinho è difficilissimo da trovare, forse l'unico che può eguagliarlo, ma decidesse veramente di fare l'allenatore a tempo pieno è Berlusconi. Ma di fatto lo è, perché ha messo Leonardo in panchina. No, se si esponesse veramente, se andasse in panchina finalmente, come tutti si aspettano, sarebbe veramente l'unico che potrebbe dare la paga a Mourinho. Allora, scontro Mourinho, Berlusconi in panchina, arbitro Gene Gnocchi, va bene? Inter Milan con Mourinho e Berlusconi in panchina sarebbe una figata clamorosa. Allora lo teniamo nel cassetto dei sogni, intanto andiamo. In bocca al lupo, buone grazie vacanze e alla stagione al campionato 2009-2010. Che sia un bel campionato. Per A Bordo Campo di quest'anno è tutto. Un saluto e un ringraziamento in regia a Carmelo Lauricella e a tutti i tecnici che ci hanno accompagnato in questa avventura. Vi lasciamo in compagnia per luglio e agosto del meglio di A Bordo Campo, ma potete continuare a scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e a riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.